Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Focus Economia. Di Sebastiano Barisoni. Speciale voto. Sette, otto minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. Come già recitava anche la nostra sigla, un Focus Economia che chiaramente vi aggiornerà sull'andamento del voto, sia gli exit ma soprattutto a questo punto lo spoglio effettivo. Già il nostro Alessio Maurizi, che ringrazio, vi ha aggiornato fino a pochi istanti fa. Mi sembrano chiaramente pochissimi dubbi a questo punto sulla vittoria dei sì al referendum. E invece, come era anche immaginabile, tutto si gioca in Toscana e soprattutto, stante sempre gli exit poll, in Puglia, dove il testa a testa tra Fitto e Emiliano è apparentemente totale. Un po' più di distacco invece in Toscana per il candidato a vantaggio del candidato del centro-sinistra Giani. Avremo aggiornamenti su questo. Però non dimentichiamoci anche la giornata economico-finanziaria. Perché lo dico? Perché oggi è una giornata di passione sui mercati, nel senso che i cali sono generalizzati e l'America in questi casi, non ha, come spesso avviene, non ha dato una mano. Ci sono un insieme appunto di cali generalizzati sui mercati, ma e parleremo di questo chiaramente. Dopodiché avremo anche, oltre che i commenti sull'andamento dell'esito delle amministrative, anche un approfondimento. Oggi torna, come ogni lunedì, Alessandro Plateroti con Dietro la Notizia. C'è un tema che può sembrare tecnico, ma in realtà riguarda da vicino tutti noi, e soprattutto chi ha un credito, ha ottenuto un prestito bancario. Mi riferisco alle famose regole di Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, e cioè le regole che prevedono che in caso di di prestiti da parte di una banca, la banca deve accantonare, mettere fieno in cascina, soprattutto in base al rating, quindi a quello che è l'affidabilità del soggetto a cui vengono prestati i soldi. Perché questo? Perché c'è una pressione da parte del mondo bancario, ma non solo, affinché vengano sospesi e restino sospese le regole di Basilea 2 e Basilea 3. Il ragionamento è molto semplice: si dice in sostanza, visto che c'è una situazione eccezionale e anche i prestiti e l'esposizione delle banche è di carattere eccezionale, forse occorrerebbe continuare con una sospensione delle regole di Basilea e soprattutto fare in modo che le banche non vengano penalizzate da queste regole, anche perché sappiamo che vi sono da un lato le moratorie concesse dalle banche alle imprese, moratorie che in Italia hanno toccato un livello altissimo, e poi ci sono invece, e riguardano non solo i mutui, ma riguardano anche altri prestiti concessi alle imprese, e che sono garantite dal 30% dello Stato e hanno consentito la sospensione delle rate sui prestiti per un valore di 160 miliardi. Qui c'è un disallineamento tra le regole italiane e quelle dell'Unione Europea, che in tema appunto di come valutare questi prestiti. Il rischio è che possano finire nei non performing loans, quindi negli LPL, i prestiti che non possono essere i prestiti deteriorati, diciamolo così. Siccome erano l'anno scorso 64 miliardi, ma secondo recenti stime nei prossimi 18 mesi potrebbero aumentare di altri 60, forse 100 miliardi, è chiaro che se le regole europee non tengono conto di questa fase straordinaria, si può creare un grosso problema. Il 30 settembre scade la deroga concessa dall'ente europeo l'EBA agli istituti per non eseguire la riclassificazione dei prestiti sotto moratorio, quindi la sospensione. Però si cerca di capire cosa potrebbe succedere dopo il 30 settembre. Oggi l'EBA, la European Banking Authority, ha detto: non abbiamo intenzione di distruggere il sistema delle moratorie, ma vogliamo che per le banche si torni alla normalizzazione. Io non so dove viva l'EBA, mi sembra che alla luce anche dei dati che arrivano da Francia, Gran Bretagna e Spagna, di normalizzazione non si possa parlare se non nella testa della European Banking Authority, e spero che non vi sia un atteggiamento eccessivamente ortodosso facendo quasi finta che nulla sia successo da febbraio del 2020 in poi. Ne parleremo, dicevo, delle borse. Allora, sui mercati finanziari che cosa è successo? Da un lato quello a cui già facevo riferimento, e cioè il fatto che le notizie che arrivano dai paesi europei, rimettiamoci all'Europa, e in particolar modo dalla Francia, ma non solo, anche dalla Spagna, sono notizie negative, e c'è il timore, oddio, il timore, i lockdown stanno già ripartendo, quindi più che un timore, ma sono ancora parziali e più morbidi rispetto a quanto visto tra marzo, aprile e maggio. Però insomma c'è un forte timore che la situazione possa peggiorare. Questo sposta onestamente tutta la preoccupazione sui mercati. I cali sono, per quello che può servire, simili in tutta Europa. Parigi perde il 3,55%, Francoforte il 4,12%, Londra perde il 3,40%, il Dow Jones perde il 3% secco in questo momento, Milano perde il 3,41%. Con i titoli tutti negativi tranne di Assorin più 0,60%, e in particolar modo più pesanti di altri CNH meno 8,20%, Saipem meno 6,70%, Banca Mediolanum meno 6%, Leonardo meno 6% come Tenaris, Atlantia meno 5,80% come Banco BPM, il 5,5% lo perde Unicredit, il 5% è il calo di Unipol e anche di Eni e di Buzzi Unicem, il 4,5% lo perde Nexor, Interpump, Fiat Chrysler, Pirelli, il 4% è il calo di Intesa San Paolo e di Azimut. Mi fermo con chi perde più del 3%, che sono Amplifon, meno 3,90 come Moncler, Banca Generali meno 3,5 come Mediobanca e Poste Italiane, Fineco meno 3,30 come le Generali. E di questo parleremo, appunto, si sommano un insieme di fattori come spesso avviene nella borsa, ma diciamo così, a scatenare le vendite, come si dice in questi casi, è stato appunto il peggioramento della situazione in alcuni paesi europei, a partire da Gran Bretagna, Francia e Spagna. Il peggior calo da luglio, e sotto pressione sono tutti i titoli, non solo quelli finanziari, ma anche, come dicevamo, come sentivate, gli energetici, gli industriali. Per quello che riguarda poi Londra c'è un caso diverso che riguarda HSBC. Le banche invece vanno male anche per la vicenda HSBC, l'ombra di riciclaggio torna a scuotere infatti il settore bancario, quello della City londinese. HSBC e Standard Chartered sono entrambe quotate a New York, a Hong Kong, e sono finite ai minimi da 25 anni a questa parte. E poi ci sono altri casi specifici, penso al caso Nicola, che sta influendo anche sul titolo CNH, e ne parleremo nel corso dell'aggiornamento dei mercati finanziari. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. E allora, visto che come sempre all'inizio partiamo dalle notizie di carattere internazionale, già vi facevo riferimento per quello che riguarda i mercati finanziari. Allora, c'è l'ombra di un riciclaggio tra due colossi, soprattutto HSBC e Standard Chartered, un coinvolgimento per oltre 20 anni in operazione con fondi illeciti. e a innescare tutto l'indagine dell'International Consortium of Investigative Journalists. Insomma, è il consorzio che a suo tempo portò alla luce lo scandalo Panama Papers. E, sulla base dei documenti trapelati, si ipotizza che le due banche continuassero a spostare fondi illeciti nonostante l'avvertimento da parte dei funzionari statunitensi. I documenti avrebbero identificato più di 2.000 miliardi di dollari di transazioni tra il 1999 e il 2017. Interessante notare che la crisi economica innescata dalla pandemia va a contrarre anche la spesa mondiale in smartphone. Si prevede un calo del quasi l'8%, del 7-9%, e quindi 30 miliardi in meno rispetto all'anno scorso. L'anno scorso furono spesi 458 miliardi nel settore degli smartphone, quest'anno una stima di 422 miliardi. Di Gran Bretagna e Francia vedo alcuni messaggi, abbiamo già detto ampiamente, in sostanza, a parte la stima, che spero essere del tutto smentita, di 200 morti quotidiani al giorno in Gran Bretagna e 50.000 contagi al giorno se non verrà fermato ora il rimbalzo dei casi. Questa è la stima dei due professori, sono Patrick Vallance e Chris Wittig, che sono consiglieri del governo di Boris Johnson. Metà della Francia nel frattempo è andata in zona rossa per allerta coronavirus. Ci sono 50 dipartimenti in tutto, sono stati dichiarati zona di circolazione attiva del virus. È una classificazione che permette, tra l'altro, ai prefetti di adottare misure supplementari per bloccare l'avanzata del coronavirus. Le regole invece sono più flessibili nelle scuole francesi. Le scuole elementari e materne potranno continuare la loro attività normale anche se un allievo sarà risultato positivo. L'interessato ovviamente resterà a casa e i compagni continueranno l'attività scolastica. Solo se vi saranno tre casi o più di positività, la classe dovrà essere chiusa. Fino adesso invece bastava un positivo e potevano tornare in classe soltanto in presenza di un tampone negativo realizzato 7 giorni dopo l'ultimo contatto con il caso confermato. Giudizio abbastanza simile, direi, tra la Banca Centrale Europea e la Banca Centrale Tedesca sulla ripresa economica, perché la BCE oggi, per voce del suo presidente Christine Lagarde, ha detto la ripresa è incerta, disomogenea e incompleta, anche se poi ha aggiunto se verranno fatte le scelte giuste questa crisi diventerà anche un'opportunità. E poi ha rivendicato la Lagarde che l'atteggiamento della Banca Centrale Europea e la politica della BCE ha riuscito a stabilizzare i mercati, ma ha detto che serve ancora un sostegno fiscale, in questo caso fiscale vuol dire di bilancio, quindi di spesa, per la ripresa economica. La Bundesbank, la banca centrale tedesca, ha detto, chiaramente si riferiva all'economia tedesca, ha detto dopo il crollo del PIL l'economia ha ripreso slancio nei mesi di luglio e agosto, tuttavia il ritmo della ripresa sta rallentando dopo il massiccio arretramento del trimestre primaverile. È seguito un terzo trimestre con una forte crescita, ma la stima della Bundesbank è che nel resto dell'anno la ripresa andrà avanti, ma più lentamente. E invece continuano ad arrivare notizie negative dalla Lufthansa, perché almeno 150 aerei del gruppo Lufthansa, rispetto ai 760 che insomma il parco velivoli del gruppo, non voleranno più. Tra l'altro anche il numero di posti di lavoro a tempo pieno supererà i 22.000, i posti di lavoro a tempo pieno tagliati, supererà i 22.000 già annunciati. Faccio notare che Lufthansa ha già goduto di un prestito garantito dallo Stato tedesco per 9 miliardi di euro. E a proposito di prestiti o sussidi, il presidente della Confagricoltura Massimiliano Giansanti oggi ha fatto notare che se invece negli Stati Uniti sono arrivati complessivamente hanno già incassato sostegni diretti agli agricoltori americani per 16 miliardi di dollari, a cui si sono aggiunti 3 miliardi per l'acquisto sul mercato di prodotti da destinare ad aiuti alimentari interni. Il sostegno dell'Europa a favore dell'agricoltura resta fermo a 80 milioni di euro, denunciando appunto una sperequazione tra quanto gli Stati Uniti aiutano i loro agricoltori, quanto invece non sta facendo l'Europa. (349) 238 6666 per SMS e WhatsApp. E allora andiamo a dare anche gli aggiornamenti sulle varie regioni, partendo intanto chiaramente dal referendum, però andiamo a dare gli aggiornamenti anche dalle varie regioni e poi torneremo a commentare quelli che sono i dati di borsa, una lunga pagina di borsa, il tema delle moratorie dei crediti delle banche, un tema delicatissimo perché sappiamo, lo dico chi mi sta scrivendo, che grazie anche alla moratoria su mutui e prestiti si è permesso alle famiglie e alle imprese di respirare in questo periodo. E allora iniziamo però a dare un aggiornamento del mercato, un aggiornamento dal exit poll e anche le sezioni che stanno arrivando. Allora, il dato provvisorio sull'affluenza 52% per il referendum, un dato comunque alto, chiaramente come ricordavano i nostri colleghi, un dato che è più alto nelle regioni laddove si votava anche per le regionali, questo è abbastanza prevedibile. In quattro regioni l'affluenza infatti supera il 53% e non a caso sono Campania, Liguria, Puglia e Veneto. Mancano i dati di dato finale delle altre tre regioni dove si votava, Valle d'Aosta, Marche e Toscana. Sulle comunali l'affluenza provvisoria è ancora più alta, ma anche questo è un dato che conosciamo. Sulle comunali l'affluenza è sempre abbastanza alta, 62%. 240 comuni, il dato riferito a 240 comuni su 606 di 15 regioni. La quarta proiezione sul referendum vede la vittoria di sì aumentare come scarto al 68,1% e no che si attesta al 31,9-32%. Festeggiano i 5 Stelle, Di Maio parla di un esito storico, così come il coordinatore capopolitico Vito Crimi, risultato storico grazie agli elettori, soddisfatto anche Zingaretti del risultato del referendum. Le regionali, allora qui bisogna stare molto molto cauti, lo dico per esperienza, perché se ormai sembra abbastanza chiaro che hanno vinto i sì, più che chiaro, vedo che ormai tutti si affrettano a dire, insomma, 30 punti percentuali non sono uno scarto recuperabile, a meno che non capiti qualcosa di incredibile. E lo stesso potremmo dire della vittoria di Zaia. Allora, per quello che riguarda la vittoria di Zaia in Veneto, in discussione c'era solo la percentuale con cui avrebbe vinto, non certo se sarebbe riuscito a vincere. Una percentuale altissima, se confermata da quello che vediamo dovrebbe essere il dato più alto nella storia dei presidenti di una regione, tra il 72 e il 76%, poi Lorenzoni tra il 16 e il 20, Cappelletti tra il 3 e il 5, Guadagnini tra lo 0 e il 2%. Allo stesso modo, anche se con uno scarto più basso, sembra abbastanza netta la vittoria di Vincenzo De Luca in Campania tra il 54 e il 58%, Caldoro per il centrodestra tra il 23 e il 27, Ciarambino di 5 Stelle tra il 10 e il 14,5%. Veniamo alle regioni più, Liguria anche qui, Toti tra il 51 e il 55%, Sansa tra il 38 e il 42%, anche questa insomma è uno scarto difficilmente, anzi praticamente impossibile da colmare. Vediamo le regioni invece più in bilico, come si dice in gergo, così vi do gli ultimi aggiornamenti, poi passiamo ai mercati, torneremo su questo fra poco. Allora, le Marche, l'Acquaroli, quindi centrodestra, Acquaroli, Francesco Acquaroli dovrebbe essere in vantaggio tra il 47 e il 51%, Mangialardi del centro-sinistra tra il 34 e il 38%, anche qui lo scarto sembra difficilmente colmabile, stiamo parlando comunque di exit poll. Dove l'incertezza a mio avviso resterà totale è da un lato in Toscana, anche se viene confermato dai successivi exit poll un leggero vantaggio di Giani, e quindi del candidato del centro-sinistra Eugenio Giani, tra il 43,5 e il 47,5%. Ma adesso nelle ultime proiezioni viene definito come lieve il vantaggio, e invece è testa a testa totale in Puglia, dove Fitto e Emiliano viaggiano in una forchetta tra il 39 e il 43%. Interessante notare che la candidata dei 5 Stelle, Antonella Ricchia, è tra l'11 e il 15%, e Ivan Scalfarotto, quello di Italia Viva, tra l'1 e il 3%. Dico interessante perché è chiaro che in caso di vittoria di Fitto, vista la percentuale del candidato dei 5 Stelle, la Ricchia, immagino già le polemiche, perché se Scalfarotto ha mosso poco, sapete poi tutta la polemica sul voto disgiunto, l'invito fatto a usare il voto disgiunto per non penalizzare la coalizione di centro-sinistra, tutte le polemiche si concentrano a mio avviso sulla Puglia, perché se dovesse vincere Fitto, è chiaro che la mancanza dei voti dei 5 Stelle diventerà fondamentale. Al momento le proiezioni danno la Ricchia tra l'11 e il 15%, e ripeto, minore l'apporto della mancata sostegno di Italia Viva, visto che Scalfarotto è dato tra l'1 e il 3%. Noi vi arriveremo tra poco, prima però appunto andiamo sul meteo e la pubblicità, e poi con Dietro la Notizia cerchiamo di capire che cosa stia capitando in Europa. Ripeto, l'ultima cosa che manca in questo momento è avere un EBA, un'autorità bancaria europea, che chieda alle banche dal 30 settembre di tornare, diciamo, a riapplicare, la dico male ma per farmi capire, i criteri di Basilea, quindi accantonare in base alla rischiosità del prestito, con il rischio insomma che poi tutto questo veda aumentare le sofferenze bancarie e gli NPL, i non performing loans delle banche. Faccio notare che questi prestiti sono stati concessi anche perché c'era un'emergenza Covid, c'era un decreto Cura Italia e liquidità che chiedeva appunto, che permetteva di mettere in moratoria i prestiti a famiglie e imprese, e poi c'è con una garanzia tra l'altro al 30% dello Stato. Ne parliamo dopo il meteo. Focus Economia. Minuti, sì, mi fa notare un ascoltatore, guardi che hanno vinto anche Meloni e Salvini, sul referendum non c'è dubbio, diciamo, il PD invece, Zingaretti aveva appoggiato il sì, all'interno del partito c'era stata più di una spaccatura e più di un mal di pancia, però adesso daremo tra pochi minuti altri aggiornamenti, ricordo che sono proiezioni sempre sulle regionali, mentre sono schede scrutinate per quello che riguarda il referendum. Però dicevo, allora, noi sappiamo che quando è arrivato il decreto Cura Italia c'è stata un'iniziativa importante che ha permesso la cosiddetta moratoria sui mutui, quindi alle famiglie, e sui prestiti alle imprese. Complessivamente hanno fatto ricorso i mutui, la moratoria su prestiti o alle famiglie o alle imprese ha raggiunto i 300 miliardi di euro, che è una cifra importantissima perché ha permesso alle famiglie di respirare non dovendo pagare la rata del mutuo, che viene sostanzialmente spostato in là come scadenza, e alle imprese attraverso anche una garanzia del 30% di Stato, siamo 160 miliardi di sospensione delle rate dei prestiti delle imprese, e quindi altri 140 miliardi vale invece la sospensione dei mutui. Che cosa rischia di succedere, perché c'è agitazione nel mondo bancario? Il 30 settembre decade la deroga che l'autorità bancaria europea, European Banking Authority, ha concesso alle banche per non riclassificare i prestiti sotto moratoria. Il rischio qual è? Beh, il rischio lo scopriamo con l'appuntamento di ogni lunedì con Alessandro Platerotti. Dietro la notizia. Allora, sappiamo che infatti esistono le regole di Basilea 1, Basilea 2, Basilea 3, la vendetta, il ritorno di Basilea, che sostanzialmente dicono alle banche, in base all'affidabilità della persona a cui presti i soldi, del soggetto, in questo caso l'impresa, devi accantonare un insieme di capitali e comunque, insomma, attento, perché sennò possono diventare incagli e poi sofferenze, non performing loans. Tutto sospeso fino al 30 settembre. Alessandro Platerotti, buonasera innanzitutto. Buonasera a te Sebastiano, buonasera a tutti. Qual è il rischio in questo momento? Allora, il rischio in questo momento qual è? Che c'è un'accelerazione da parte delle autorità bancarie europee, soprattutto in Europa, perché negli Stati Uniti non c'è in questo momento questa pressione, per accelerare l'uscita dall'emergenza per quanto riguarda la vigilanza e ristabilire le regole bancarie che erano state decise in modo restrittivo dopo la crisi del 2008, esattamente come stai dicendo te. Ora, che succede? Da marzo in poi, quando c'è stata l'emergenza, la BCE ha deciso, ha preso una serie di misure che tu stavi riassumendo con la questione dei requisiti di capitale. Sostanzialmente sono: uno, minori accantonamenti, quindi mettere da parte meno soldi per il rischio di insolvenza; due, la moratoria sui mutui e sui prestiti, come stavi dicendo, ma soprattutto il blocco degli stress test, questa è stata una cosa molto molto importante, e l'implementazione delle ultime regole di Basilea. Beh, insomma, fare marcia indietro adesso e ritornare alla normalità, cioè le regole restrittive sul credito, sembra un po' assurdo, è un rischio molto grande. Quale? Uno, intanto si apre ancora di più la forbice tra il trattamento che ricevono in questo momento i bilanci degli stati e quello che ricevono i bilanci delle famiglie e delle imprese. Perché? Perché se la BCE, la Federal Reserve, hanno già detto pubblicamente che continueranno per almeno un altro anno, due anni addirittura, ha detto la Fed, a finanziare generosamente con denaro gratis, prestiti con tasso di interesse negativo le banche, beh, il sistema finanziario nel insieme, non vedo perché lo stesso diritto non lo abbiano le famiglie e le imprese. Questo è un fatto politico, non è più tecnico-finanziario, e tant'è vero che a Bruxelles si sta discutendo, e non è solo l'Italia, di continuare a mantenere la flessibilità sulle norme bancarie. Ora, attenzione, la stessa flessibilità che è stata data alle banche in realtà è una flessibilità nel senso che ognuno decide per sé, perché alcune banche hanno immediatamente sfruttato la finestra che gli ha aperto i regolatori per dare più credito alle imprese e alle famiglie, come dicevo. Altre invece, prudentemente, forse temendo proprio un ritorno improvviso alla normalità, questo credito non lo danno. Allora qual è il risultato di tutta questa confusione che si sta creando? Che nessuno va più in banca a chiedere soldi, perché è molto difficile, ma tutte, soprattutto, e questo lo dico alle imprese, perché il livello di indebitamento raggiunto dal sistema, dalle imprese a livello mondiale, ma soprattutto in Europa, è diventato una bolla. Pensate soltanto che il ritmo trimestrale delle emissioni di obbligazioni è passato da 2 miliardi a 4 miliardi nell'arco di 2 mesi. Quindi questa è la situazione. Che cosa fare? Sicuramente la cosa più logica della BCE è mantenere flessibilità sulla concessione dei prestiti all'economia, perché la pandemia si potrà anche curare con un vaccino, ma i riflessi, i danni che ha avuto l'economia saranno sicuramente di lungo periodo. Tenendo conto che lo stesso Fondo Monetario Internazionale ha detto che ci vorranno circa 6-7 anni per ritornare a livelli di reddito, di rapporto tra reddito delle famiglie e del prodotto interno lordo, che siano quelli di livelli previsti. Allora, sì, da questo punto di vista sembrerebbe un po' strano che mentre agli stati viene concesso, come tu ricordavi, di avere ampia flessibilità nel deficit e nel debito, mentre la BCE continua a comprare titoli di Stato dei vari paesi mantenendo i tassi di interesse bassi e garantendo liquidità, e quindi mentre è sospeso, diciamo così, il patto di stabilità per permettere agli stati di fare manovre ampie, e pensate solo al recovery fund che in parte appunto, che viene finanziato sui mercati, quindi bisognerà trovare i soldi sui mercati, improvvisamente nel rapporto banca imprese fai finta che il Covid sia già finito, anche perché i crediti deteriorati erano 64 miliardi in Italia in discesa a fine 2019. È chiaro che se tu non mantenessi questa flessibilità rischieresti, la stima di PricewaterhouseCoopers, di generare nei prossimi 18 mesi tra i 60 e i 100 miliardi di nuovi crediti deteriorati. Alessandro, per concludere, forse un po' di ottimismo ce lo può dare una dichiarazione di oggi dell'EBA, della European Banking Authority, che ha detto l'EBA non ha intenzione di distruggere il sistema delle moratorie, ma vuole che per le banche si torni alla normalizzazione. Ma tieni presente questo per concludere. Attenzione, perché in pochi mesi sono state approvate emissioni di bond pubblici per 11 mila miliardi. Ce ne sono altri 5 mila miliardi che sono nella pipeline, diciamo così, che stanno per essere emessi. Quello che sembra di capire è che c'è un forte orientamento a far sì che le banche acquistino titoli di Stato per assorbire questa enorme massa di bond che verrà messa sul mercato, ma questo a scapito delle famiglie e delle imprese. Allora, grazie anche Alessandro Praterotti per questo aggiornamento. Il tema, ripeto, può sembrare tecnico, ma poi stiamo parlando di 160 miliardi di moratoria garantita al prestito delle imprese. Qualcuno giustamente mi chiede, ma perché non per le famiglie? Allora, il prestito, quando è un mutuo, ha una qualità, diciamo, del prestito molto più alta, per un semplice motivo, lo dico in maniera un po' semplicistica e brutale, perché c'è la casa a garanzia e quindi il mutuo non è mai un prestito così rischioso come un prestito che dà invece a un'impresa che deve confrontarsi sui mercati. La banca rischia un po', ma rischia sulla base del prezzo della casa, ma il margine di rischio è molto più basso, ecco perché stiamo parlando solo dei 160 miliardi sui 300 complessivi dati alle imprese. Vado sul traffico e poi andiamo invece a fare un aggiornamento dei dati anche scrutinati. C'è qualcuno continua a dirmi, lei non vuole dare i dati delle sezioni scrutinate sul referendum. Guardi, ho detto in tutti i modi che la vittoria è stranetta, adesso daremo anche gli ultimi dati. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Pubblicità. È il momento di alzare lo sguardo sul futuro e investire su una visione più alta, sull'investimento dei tuoi risparmi, senza risparmiare i tuoi valori, su un domani costruito sulle scelte che faremo oggi. Riparti dalla consulenza che banca, forte dell'innovazione, della visione sostenibile e della solidità del gruppo Mediobanca. Che banca, alza la tua visione. Indice di solidità CET1 16,1% al 30 giugno 2020, riferito al gruppo Mediobanca. Focus Economia. minuti. Allora, per quello che riguarda il referendum, visto che l'ascoltatore lo chiede con insistenza, allora, con un campione al 41%, la quarta proiezione dà al 68,1% la vittoria dei sì. Adesso, io capisco l'entusiasmo per avere, diciamo, i dati più aggiornati, ma è innegabile che abbiano vinto i sì ed è innegabile che con queste proiezioni hanno vinto anche con un ampio scarto. Mi interessano di più, laddove c'è notizia, le proiezioni, e stiamo sempre parlando di proiezioni, sulle regioni. Allora, la seconda proiezione SVG vede Gianni al 47,2% rispetto alla Ceccardi, quindi il centro-sinistra avanti al 47,2% con la Ceccardi al 40,8%, invece la Galletti dei 5 Stelle al 7,1%. Veniamo anche alle altre proiezioni. In Puglia, sempre SVG, Michele Emiliano sarebbe al 46,8% e Fitto al 38%. Questa è molto diversa rispetto alle prime, cioè aumenta il distacco tra Emiliano tra Emiliano e Fitto. La Laricchia al 10,8%, Scalfarotto al 2,3%. Pochi dubbi sulla Campania, anzi aumenta ancora il distacco secondo le proiezioni di De Luca al 66,8% su Caldoro, con Caldoro al 19,6%. Anche il consorzio Pinio vede in Puglia davanti Emiliano al 46% e Fitto al 40%. Sembrerebbe invece netta lo scarto nelle Marche tra Francesco Acquaroli del centrodestra e al 48% e Maurizio Mangialardi al 34,7%. E Zingaretti poco fa ha fatto un commento: se ci avessero dato retta gli alleati, l'alleanza di governo avrebbe vinto quasi in tutte le regioni italiane. Si riferisce chiaramente al testa a testa in Puglia, se vediamo se sarà confermato un testa a testa, e in Toscana, ma probabilmente anche alle Marche, anche se a me sembra che lo scatto, viste le proiezioni di 14 punti alle Marche, non avrebbe permesso di far vincere il centro-sinistra, anche se alleato con i 5 Stelle. Invece l'unica regione in cui si è alleato, la Liguria, la vittoria di Toti, oltre che fuori discussione, sembra abbastanza con uno scarto molto forte. Era dato tra il 51 e il 55%, Sansa tra il 38 e il 42%. Allora, vedo adesso un'agenzia Renzi: grazie Gianni per la vittoria. Quindi Renzi dice, insomma, ha già vinto, la Toscana oggi sorride. Sappiamo che insomma alcune delle critiche al candidato Gianni erano dovute proprio al fatto che fosse il candidato renziano, e poi alcune critiche a Renzi che poco si sarebbe speso sul territorio. Però vediamo di rifare un punto di cronaca su tutti questi dati usciti in questa ora, e ripeto, sono proiezioni, con chi sta seguendo lo scrutinio per Radio 24 da Montecitorio, Elisabetta Fiorito, buonasera. Sì, buonasera Sebastiano. Allora, vediamo di capire, mi sembra partiamo dalle non notizie, o meglio dalle conferme delle notizie. Zai adesso con la seconda proiezione SVG vola al 74%, De Luca, se ho ben visto, vola al 66%, e lì la partita si è ampiamente chiusa, Elisabetta. Sì, la partita si è ampiamente chiusa. Il discorso non si è mai aperta, per essere onesti. Beh, su Zaia direi che è stato un plebiscito, Sebastiano. Mm-hmm. Questo qui anche avrà degli effetti sulla Lega. Ti volevo però dare gli ultimi dati proprio sul referendum, sì, che sono le sezioni del Ministero degli Interni. 47.890 sezioni su 61.622, i sì sono al 69,33%, i no al 30,67%. Questi sono proprio dati, certo, non sono proiezioni. Riguardo a quello che dicevi tu, ricordiamo quello che ha detto Zingaretti ha detto: se fossimo Stati Uniti si sarebbe vinto in quasi tutte le regioni, però in Liguria il centrosinistra ha perso ed era unito, cioè Movimento 5 Stelle. E anche nelle Marche mi sembra che lo scarto sia talmente ampio che non so se ce l'avrebbero fatta. Diciamo che dal canto suo il centrosinistra può vantare il fatto di aver tenuto la Toscana e di aver tenuto la Puglia, malgrado la campagna di Battista, dall'altra però abbiamo un risultato della Lezzi, e dall'altra abbiamo un risultato talmente tanto eclatante in Veneto che pone dei problemi seri. Ecco, scusami Elisabetta, faccio una domanda forse ingenua, ma vedere che Renzi che già festeggia la vittoria di Gianni, ora per carità lo scarto stante le ultime proiezioni sembra essere abbastanza significativo anche in Toscana, però perché Gianni sale al 47,2, sempre di proiezioni stiamo parlando, contro il 40% della Ceccardi, ma non è un po' presto, visto che stiamo parlando di proiezioni e di uno scarto che non è quello di Zaia o di De Luca, già cantare vittoria? No, perché le proiezioni stanno confermando man mano, quindi è probabile, è sempre più probabile man mano che le proiezioni che continuano, che il risultato sia effettivamente quello. E poi perché lo scarto di Gianni rispetto alla Ceccardi, la famosa forbice, si è allargato e quindi a questo punto è probabile, più che probabile, che Gianni possa diventare il governatore della Toscana. Il fatto che Renzi commenti in termini così entusiastici questo accordo, dobbiamo anche guardare a quello che succederà da domani qui a Montecitorio, dove si deve discutere di legge elettorale, dove si deve discutere di soglia di sbarramento. Tutti quindi, temi che appassionano il paese, immagino, con la crisi del Covid. No, perché adesso... No, è vero pure che c'è stato un effetto strano, perché eravamo così concentrati su tutti i dati che quando io ho aperto per esempio il sito di Repubblica, che dove c'era il bollettino di oggi, ci siamo ricordati che appunto siamo in un paese Forse voi ve lo siete ricordati, qua non si è dimenticato nessuno. Allora andiamo avanti sulla Puglia, per favore, per quello che riguarda invece la Puglia. Mi sembra che lì il testa a testa, per quanto con un leggero vantaggio di Emiliano, abbiamo un minuto ancora scarso, resti invece, visto che stiamo parlando di proiezioni. Però anche lì Emiliano sta aumentando la sua forchetta, cioè che è successo? La prima proiezione RAI dava Emiliano e Fitto con la stessa percentuale, mentre adesso la seconda proiezione RAI dà Emiliano al 47% e Fitto al 39,1%. Quindi anche lì si parla di possibile, probabile vittoria di Emiliano. Allora, grazie Elisabetta Fiorito, che ritroveremo poi ospite nei prossimi collegamenti. Qualcuno mi dice, ma vede la notizia del giorno, che i media e la politica hanno schierati per il no, invece hanno vinto il sì. Allora, guardi, io leggo i giornali, come faccio anche per obbligo e per lavoro. Alcuni giornali erano schierati totalmente per il sì, altri erano per il no e fanno riferimento a due aree politiche diverse. Alcuni hanno ospitato le opinioni a favore del sì e a favore del no. Poi ci sono stati illustri rappresentanti del PD a dichiarare il voto contrario a quello di Zingaretti per il no. Insomma, da lì a dire che c'è stata una campagna di tutti i giornali per il no, io non l'ho vista. Ho visto, come avviene in democrazia, alcune persone avere un'indicazione differente rispetto anche a quella del loro partito, mi riferisco in questo caso al PD, e i giornali pubblicare le ragioni del sì e le ragioni del no, alcuni giornali essere totalmente a favore del sì, altri totalmente a favore del no, onestamente. Quindi la campagna mediatica a favore del no io non l'ho vista, ma evidentemente mi sarò distratto. Andiamo sul GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Vuoi far crescere la tua azienda in Italia e all'estero con i contributi pubblici? Affidati a Gruppo Del Barba Consulting. Da oltre 20 anni Gruppo Del Barba aiuta le aziende italiane, startup, PMI e grandi imprese a individuare le migliori opportunità di accesso ad agevolazioni fiscali e contributi a fondo perduto. Scopri ora tutte le opportunità a tua disposizione. Chiama il numero verde 800 443 443 o vai su gruppodelbarba.com. Gruppo Del Barba, gli specialisti della finanza agevolata. Nuova Mini Countryman Northwood Edition. Fino al 31 dicembre, Cooper con tutto di serie, tua a €150 al mese. Tantri 99, TAEG 569, salvo approvazione Mini Financial Services. Approfitta degli eco incentivi su tutta la gamma. Scopri di più in tutte le concessionarie Mini e su mini.it. Entra in Fondartigianato e scopri i percorsi formativi per adeguare le competenze professionali dei tuoi dipendenti alle sfide del mercato e supportare la tua azienda in uno scenario nuovo e complesso. Scopri di più su fondartigianato.it. All'Angolo Carni, con i suoi 250 grammi di peso, con zero antibiotici all'attivo e il titolo di campione di bontà, pollo origine Coop! Convenienza tripla Coop! Fino al 23 settembre, fette sottili di petto di pollo origine Coop a solo €1,98 la confezione da 250 grammi. Convengono a chi li acquista, a chi li produce e alla salute di tutti, perché da polli allevati senza uso di antibiotici, la Coop sei tu! Hai una cattiva reputazione in internet? Ci sono informazioni o articoli negativi sul web che danneggiano te o la tua azienda? Contattaci. DigitalLex lavora per migliorare la tua reputazione. Proteggi il tuo futuro. Elimina le informazioni negative dal web. Vai su digitallex.it. Se esporti o hai progetti di espansione all'estero, rivolgiti a noi di Simest. I nostri finanziamenti per l'internazionalizzazione ora ti offrono più risorse e sono estesi anche ai progetti in paesi all'interno dell'Unione Europea. E affrettati, perché da oggi e fino alla fine dell'anno potrai beneficiare di due condizioni estremamente vantaggiose. La possibilità di ottenere il 50% a fondo perduto, con il resto a tasso di interesse agevolato. E in più, non ti saranno richieste garanzie a fronte del finanziamento. Simest è da sempre dalla parte della tua impresa e da oggi ancora di più. Un impegno senza precedenti per farti tornare a correre nel mondo. www.simest.it. Finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione a valere su fondi gestiti da Simest per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Focus Economia. Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso commentiamo quello che è successo sui mercati, poi diamo l'ultimo aggiornamento prima della chiusura del programma con le ultime proiezioni, anche andando un po' nel dettaglio di queste proiezioni. Dicevo dei mercati, allora il calo, alcuni stanno già parlando di tonfo, in effetti un calo così forte non si vedeva da luglio, è del 3,75% oggi a Milano, l'indice FTSE MIB torna sotto i 19.000 punti, è del 3,74, cioè identico a Parigi, del 4,37 a Francoforte, del 3,40% a Londra, l'America sta perdendo il 2,70%. Sono stati colpiti, come si intuisce anche dall'indice, tutti i settori, il settore industriale e cosiddetto automotive. Vede CNH, peggior titolo, perdere l'8%, qui però c'è anche la vicenda Nicola di cui parleremo. Saipem meno 7,5%, Leonardo, ex Finmeccanica, meno 6,70%, il 6,5% lo perde Tenaris, come Banca Mediolanum e Atlantia, il 6% il calo di Unicredit e di Eni, il 5,5% quello di Banco, BPM, Unipol e Buzzi Unicem, il 5% lo perde Interpump, Exor e Pirelli, il 4,5% il calo di Intesa San Paolo e Azimut, il 4% lo perde Fiat Chrysler e Banca Generali e anche Moncler. Come sempre chiudo con chi perde più del 3%, che sono meno 3,90 Amplifon a punte generali, meno 3,70 Fineco e Mediobanca, meno 3,5 Poste Italiane, meno 3 Telecom Italia e Ferrari. Si salva solo di Assorin, più 1,20%. Per quello che riguarda i migliori e peggiori in assoluto, devo dire sostanzialmente c'è anche Deutsche Bank meno 9%, Renault meno 8,5%, ThyssenKrupp meno 7,5%. Che cosa è successo? Allora, ci sono alcuni casi, mi riferivo per esempio al caso Nicola, ma anche all'ombra di riciclaggio su colosso bancario HSBC e Standard Chartered, con possibili coinvolgimenti anche di altre banche, Deutsche Bank e JP Morgan. Ciao Condi, la Radio Corriere, Sole 24 Ore, buonasera. Ciao Sebastiano, buonasera a tutti. Partiamo dal calo generale. Allora, se ho ben capito, però ti chiedo conferma, c'è anche una riflessione su come sta progredendo, ahimè, la diffusione del Covid. Poco fa la Gran Bretagna ha comunicato che sono saliti oltre quota 4.000 i contagi da coronavirus, 4.370, poco meno del picco post-estivo di due giorni fa. Calato invece il numero dei morti a 11 persone, il numero dei ricoveri è poco sopra i 1.000. Devo dire che in Gran Bretagna però hanno fatto 220.000 tamponi, il livello più alto in assoluto in Europa. È questo che ha spaventato complessivamente i mercati, poi andiamo invece sul caso HSBC da un lato e Nicola dall'altro. Ma direi assolutamente sì, diciamo che il market mover di oggi, sicuramente il timore di nuovi lockdown, quindi di nuovi blocchi dell'attività economica, oggi ha mandato in grossa difficoltà le borse, poi c'è anche tutto il tema degli Stati Uniti, dove ormai si sono raggiunti 200.000 morti, e anche lì per Covid ovviamente, e anche lì gli indici, diciamo, hanno aperto male, sono peggiorati poi nel pomeriggio, trascinando poi al ribasso a loro volta le principali borse europee, che poi hanno chiuso sui minimi di giornata. Per Wall Street il Dow Jones, vedevo prima, c'è di oltre il 3%, è la peggior seduta da aprile, se non sbaglio, quindi una giornata di forti rallenti sicuramente legata al tema un po' dei lockdown e dei contagi da Covid. Veniamo invece ai casi specifici. C'è questo scandalo che coinvolge in primis HSBC e Standard Chartered, è praticamente un'accusa di riciclaggio. Entrambe sono crollate ai minimi da 25 anni alla borsa di Hong Kong. Vi sarebbero indiscrezioni pubblicate dall'International Consortium of Investigative Journalists, il consorzio di giornalisti che ha per esempio rivelato i famosi Panama Papers, secondo i quali vi sarebbe un'inchiesta su HSBC che avrebbe tratto profitti da fondi illeciti negli ultimi due decenni e nonostante l'avvertimento da parte dei funzionari americani avrebbero identificato i documenti più di 2.000 miliardi di dollari di transazioni tra il 99 e il 2017. Eh sì, diciamo che ci sono ancora giornalisti che fanno gli scoop in questo mondo. Battute a parte, sicuramente il settore bancario è stato colpito da questi leakage, da queste indiscrezioni. Tu citavi alcuni istituti, non sono gli unici, c'è Deutsche Bank per esempio tra i vari istituti che comparivano in questa inchiesta, che è stato il peggiore degli istituti di Francoforte, ha perso l'8%, in realtà tutto il settore bancario oggi è stato tra i peggiori, lo Stoxx di settore europeo ha perso il 5%, un po' sulla stessa lunghezza d'onda le auto, ma anche e soprattutto il settore dei viaggi e dei trasporti giù del 5%, e qui ci colleghiamo al discorso precedente che è quello dei timori per una nuova ondata di contagi di lockdown. Ultima vicenda che ha coinvolto il gruppo in parte, insomma, CNH, si chiama vicenda Nikola con la K. È una startup di veicoli elettrici fondata da Trevor Milton nel 2014. Si è dimesso appunto il fondatore e presidente, se ho ben capito, dopo un'indagine avviata dalle autorità americane. Sì, diciamo che qui la vicenda è un po' intricata, c'è, diciamo, un fondo avvoltoio, in realtà un fondo che lavora in modo short, cioè scommette poi sui ribassi dell'azione, che ha formulato una serie di accuse appunto a Nikola, sostenendo il fatto che le sue tecnologie legate ai veicoli elettrici non siano, diciamo, del tutto corrette, così come vengono spiegate, non siano del tutto ortodosse. Quindi c'è un attacco di questo fondo speculativo, chiaramente sul mercato, diciamo, i riflessi ci sono, però questo attacco evidentemente qualcosa di concreto ha, perché oggi il presidente si è dimesso e poi gli effetti di tutto ciò sono arrivati anche su CNH, che detiene una quota del 7% appunto di Nikola, e oggi è stata la peggiore del principale listino di Milano, il FTSE MIB, ha ceduto mi pare oltre l'8%. Allora, grazie anche a Ciao Conin a Radio Corriere sulle 24 ore. Andiamo sul traffico e poi l'ultimo commento su proiezioni da un lato e seggi scrutinati dall'altro per quello che riguarda il referendum. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it vi presenta Focus Economia. E 16 minuti e concludiamo da dove eravamo partiti, perlomeno quanto ospiti. Saluto di nuovo il vice direttore del Sole 24 Ore, che ha partecipato allo speciale che è iniziato alle 15, condotto da Alessio Maurizi di Radio 24. Alberto Orioli, buonasera di nuovo. Buonasera a voi. Dico, chiudiamo, non nel senso che ci sia lo spoglio definitivo, ma diciamo chiudiamo questa parte di speciale elettorale, poi altri aggiornamenti arriveranno durante la zanzara. Partiamo dal referendum, dove qui parliamo di spoglio vero e proprio. Oltre 60, ho visto 61% per i sì, diciamo che c'è uno scarto talmente ampio di almeno 30 punti percentuali da far cantare vittoria, devo dire anche giustamente, 5 Stelle. Poco fa ho visto Di Maio dire che volevano usare il referendum contro i 5 Stelle e anche il PD. Lì il dato è abbastanza diciamo netto quanto vittoria. Sappiamo che tutti scommettevano su una vittoria dei sì, la notizia era la differenza, lo scarto rispetto ai no. Sì, esatto, forse addirittura rispetto agli analisti e politologi che abbiamo sentito anche nei corsi di questi giorni col giornale, la quota dei no è perfino più grande di quello che ci si potesse immaginare, nonostante la vittoria dei sì sia debordante evidentemente, però il fatto che siamo intorno al 30% di no crea una massa di sensibilità di cui i partiti anche al governo dovranno farsi carico, perché non è comunque un blocco banale, visto poi anche la provenienza, diciamo così. Per il resto sì, è un risultato che si intesteranno i 5 Stelle e servirà anche a coprirne altri meno brillanti, però bisogna dire che anche nel centrodestra c'era chi ha spinto molto per il sì. Certo. Quindi è un successo in ogni diciamo caso, bipartisan in questo caso, anche da un'iniezione di voti che vengono dall'altro schieramento, a partire da Fratelli d'Italia naturalmente. Veniamo alle regionali. Allora, se adesso vedo l'ultima proiezione per la Liguria, Toti in testa al 52,8%, così come nelle Marche Acquaroli va al 47,3%. Sappiamo che non era in discussione la Liguria, neanche forse le Marche. Le due regioni in bilico erano Toscana e Puglia, e poi invece il Veneto va analizzato perché tutti davano per scontato una vittoria di Zaia che è stata totale. Adesso vedremo il dato definitivo, ma se è confermato l'oltre 70% per Zaia, sarebbe il presidente di regione col maggior consenso da quando esistono le elezioni. Ma partiamo dalla Toscana, perché ho visto che Gianni si sta recando, ha raggiunto la sede della regione toscana. Le dichiarazioni di Renzi, stiamo parlando di exit, però mi sembra che il distacco continui a essere confermato al 47,7% l'ultima proiezione contro un 41,2% della Gianni. Della Ceccardi. Sì, rispetto agli exit poll sicuramente la forbice è molto più ampia. Naturalmente dipende anche da quali sono le sezioni che vengono scrutinate, perché lì c'è certo un gioco di circoscrizioni molto importanti, perché sostanzialmente questo voto è stato Firenze contro tutti, cioè vale a dire contro tutto il resto della Toscana. La campagna elettorale della Ceccardi è stata impostata tutta così, contro, diciamo così, il giglio magico, se così vogliamo chiamarlo, ha arroccato nel capoluogo di regione, chiedendo il consenso per chi sta fuori dalle mura. Chiaramente Firenze però ha 4 circoscrizioni e quindi pesa molto anche in termini di numerosità come voti. Dipende da quali sono le circoscrizioni che sono in fase di che sono poi a seguire a queste prime proiezioni. Comunque sia, il dato è molto più confortante dell'exit poll di prima, perché l'exit poll di prima naturalmente aveva due forbici che si incrociavano. E se avessimo applicato l'errore statistico avremmo tranquillamente potuto anche immaginare una vittoria tranquilla del centrodestra, quindi questa cosa bisogna vedere. Per ora, diciamo così, c'è un Gianni abbastanza tranquillo, per così dire. E questa diciamo, da questo punto di vista è una novità, perché lì ci si aspettava un testa a testa più forte. Andiamo alla Puglia, dove mi sembra che anche qui le ultime proiezioni vedano De Luca sto guardando De Luca adesso al 63% in Campania, ma qui non c'è partita, lo do solo come aggiornamento. L'ultima proiezione De Luca al 63%, Caldoro al 20%. Dicevo, andiamo alla Puglia, dove anche lì sembrava un testa a testa, soprattutto uscite i primi exit poll, testa a testa tra Fitto e Emiliano. Mi sembra che anche qui stia aumentando invece il divario. La stessa situazione della Toscana, ci sono 7-8 punti di differenza, mi sembra che ci sia una leadership che si sta consolidando, però ripeto, bisogna vedere, sono le prime proiezioni, comunque sicuramente hanno allargato di molto la forbice degli exit poll. È chiaro che la leadership di Emiliano, se così questo fosse l'esito del voto finale, verrebbe rafforzata, quindi l'idea dialogante tra PD e 5 Stelle. Così come viene irrobustita anche la leadership di Toti, e naturalmente risulta una leadership inarrivabile quella di Zaia, che non so se ne parliamo dopo, ma adesso ne parliamo di Zaia. Sicuramente pone un tema alla Lega. Adesso arrivavo a Zaia. No, l'unica cosa, va detto che mentre il peso dei 5 Stelle, adesso stante le proiezioni, è molto basso in Toscana, le proiezioni sulla Puglia davano comunque la candidata dei 5 Stelle intorno all'11-12%. Lo dico perché se invece si dovesse arrivare a un testa a testa, sappiamo che questo porterebbe delle polemiche sul mancato appoggio dei 5 Stelle a Emiliano, la richiesta arrivata di fare il voto disgiunto. Se invece il vantaggio di Emiliano dovesse essere confermato, Alberto, probabilmente scemerebbero anche le polemiche, no? Sì, esatto, scemerebbero le polemiche e ci sarebbe probabilmente una situazione di maggior serenità nella leadership dei 5 Stelle, perché è chiaro che se effettivamente la candidata dei 5 Stelle dovesse avere quello che gli exit poll stavano attribuendo nelle prime rilevazioni che abbiamo visto, creerebbe un problema di leadership, perché è chiaro che su quello ha scommesso tutto Di Battista in antitesi e Lezzi, e la Lezzi, perché la Lezzi, che insomma è un ex ministro del governo appunto di Maio Salvini, che ha condotto una campagna tutta contro Emiliano, diciamo, insomma, e contro anche il voto disgiunto, e contro il voto disgiunto e contro la linea ufficiale del partito. Veniamo al Veneto, perché poi invece ti chiederò di trarre le conclusioni come proiezione nazionale. Allora, il Veneto non era in discussione Zaia, ci mancherebbe, tutti si sono concentrati intanto sul margine della vittoria, che è amplissimo, stante queste proiezioni, ripeto, dovrebbe, se venissero confermate, sarebbe la vittoria più ampia da quando si vota per le regionali, oltre il 70%, oscillano tra il 72 e il 73%. Aspetta che ti do un aggiornamento, vabbè, avanti sì, l'aggiornamento sul referendum è sostanzialmente invariato rispetto a quello prima. Dicevo, oltre alla vittoria di Zaia, era importante vedere anche la differenza tra i voti dati a Zaia e i voti dati alla Lega. Ora, secondo l'ultima proiezione di SVG, la lista Zaia avrebbe 26 punti percentuali in più della Lega, cioè la lista Zaia avrebbe il 41,2%, qui non è il voto a Zaia presidente, è il voto di lista. La Lega avrebbe il 15,8%, Fratelli d'Italia l'8,7%, Forza Italia il 4,4%. Uno scarto, se fosse confermato, enorme. Sì, era questa la cosa interessante nel laboratorio Veneto, che andava esaminata secondo anche appunto le indicazioni che erano state date dai politologi prima del voto, e sicuramente ha fornito ampia materia su cui discutere, perché indubbiamente la leadership di Zaia viene rafforzata quanto altri mai, e la distanza con la lista della Lega è davvero superiore a qualunque aspettativa. Madonna, cioè, qui stiamo parlando di una Lega al 15,5%, adesso sto parlando di proiezioni. Però certo, al 15,8% con un Zaia al 41%, siamo a quasi due volte e mezzo. E quindi sicuramente pone un problema di che tipo di Lega si vuole essere, che tipo di politica si vuole portare innanzi, le modalità con cui quella politica del centrodestra viene portata avanti. Perché Zaia sicuramente si è differenziata moltissimo rispetto al leader dell'ex Arroccio. Sì, qui però a mio avviso, Alberto, dell'ultima domanda che ho per te, c'è un ragionamento forse anche più ampio, e cioè sappiamo che Fitto era il candidato, diciamo, Meloni, Forza Italia, non era il candidato di Salvini. Sappiamo che nelle Marche il candidato veniva da Meloni, e che Toti, parlo delle regioni in cui Marche, Liguria, la Lega, il centrodestra ha sicuramente vinto, e che Toti non è attribuibile, diciamo, a Salvini. Il vero candidato di Salvini era in Toscana, da Ceccardi. Se io devo unire nel ragionamento quello che succede, potrebbe succedere in Toscana, uso il condizionale perché finché non vedo i dati definitivi non mi fido, e l'estremo successo di Zaia, forse la situazione si complica. Voglio dire, se Salvini avesse vinto o le proiezioni dessero una Ceccardi ampiamente avanti, è chiaro che Salvini potrebbe intestarsi a tutti i diritti e ha tutta ragione la vittoria in Toscana, ma se così non avverrà, gli altri candidati del centrodestra che hanno vinto, Marche e Liguria, non appartengono alla Lega, e comunque vada per la Puglia, anche Fitto non appartiene, diciamo, a quell'orizzonte, mentre Zaia fa due volte e mezzo la Lega in Veneto, quindi? È quello, la strategia dell'uomo solo al comando, l'onda lunga del tapete, chiamiamola così, è sicuramente scemata. C'è un centrodestra che si sta interrogando rispetto ad altre modalità di espressione di quel tipo di consenso, perché Totti, che rappresenta appunto l'anima liberale di Forza Italia allargata, l'esperimento che poi non gli è riuscito fino in fondo, ma insomma di creare un fronte più vasto, e dall'altra invece una Lega diversa, meno gridata, meno aggressiva, più attenta ai bisogni anche dal basso, ma diciamo così, con molto più, diciamo così, aplomba istituzionale che è rappresentato da Zaia. Questo, entrambi questi fronti per Salvini sono dei cruci, cioè sicuramente sono degli stimoli a riflettere su quale deve diventare la leadership del Carroccio nel futuro. Ultima battuta del centro-sinistra. Allora, è chiaro che può festeggiare Di Maio per il referendum, non può certo festeggiare per i risultati, stante le proiezioni che vedono i 5 Stelle scomparire in Veneto al 3,5%, comunque all'11% in Puglia, percentuale bassissima anche in Toscana, ma probabilmente festeggia anche Zingaretti, perché in alcuni casi non era un mistero che un'eventuale sconfitta, ancora non da escludersi, in Toscana e in Puglia, e anche un forte numero di no al referendum, avrebbero messo in discussione forse la sua leadership nel PD. Ah beh, sicuramente, è chiaro che il referendum è il miglior fumogeno per i 5 Stelle per coprire quella che è una perdita costante di consensi sul territorio, questo mi sembra evidente, e però è chiaro che è un fumogeno di tutto rispetto, perché in ogni caso è una vittoria storica su un tema per quanto demagogico e brutale nella sua articolazione dell'ultimo periodo, ma che comunque fa parte delle istanze del DNA, storiche dei 5 certo. Stelle e del DNA di quel partito. Zingaretti, se questa sarà la situazione effettiva finale, tira un sospiro di sollievo, perché la Toscana non è caduta, e tutti siamo vittime però di questa narrazione per cui se effettivamente la Toscana e la Puglia dovessero tenere c'è una grande vittoria. In realtà il dato finale è che Toscana e Puglia resterebbero al centro-sinistra, mentre il centro-sinistra perde le Marche e quindi il centro-destra avanza di un'altra regione. Solo che siamo tutti un po' vittime. Beh sì, dipende di sempre da dove partire. Se temevi 7-0, come nel calcio, capito, ti va bene anche meno. Se invece vai a guardare in maniera oggettiva, certo. È come quando i ministri fissano nel DEF i dati del PIL un po' più bassi per poi poter dire siamo cresciuti più del previsto. Sì. È tutto un gioco. È chiaro il ragionamento. Grazie anche Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Veramente tutto. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni, comunque, l'augurio di una buona serata. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.